Anche stasera, come ogni mercoledì dalle 7 alle 7 e mezza di sera, trasmettiamo mezz'ora sulla Palestina. Questa volta parleremo più che della Palestina dei palestinesi, e cioè dei palestinesi che stanno in Libano. Perché in Libano ci sono 12 campi profughi e 400.000 rifugiati ufficiali, poi in realtà penso che ce ne siano molti di più. Ma e ne parliamo con Barbara, di Associazione di Amicizia Italo-Palestinese, Leo, anche di Amicizia Italo-Palestinese, e in particolare Barbara è appena tornata da un viaggio in Libano, proprio in Libano. E allora, poi tra l'altro in Libano ci sono fatti recenti che vengono anche pubblicizzate attraverso la televisione, cioè manifestazioni. Ecco, chi fa queste manifestazioni? Che cosa significano? Cosa implicano soprattutto per i palestinesi che sono in Libano e che hanno una vita difficilissima? Allora, Barbara. La situazione in Libano, come si vede in questi giorni, è molto tesa. Quando eravamo in Libano noi, io sono tornata il 21 di settembre, c'erano molte manifestazioni, soprattutto di palestinesi, ma dovute principalmente alla legge che va a colpire il lavoro nero, che il governo aveva fatto per andare a colpire principalmente i profughi siriani, ma che aveva influito anche sulla vita dei palestinesi, perché aumentando i controlli sul lavoro al nero aveva fatto sì che molti palestinesi avessero perso il lavoro, e quindi c'erano manifestazioni quotidiane nei campi profughi e fuori dai campi profughi per chiedere che questa legge venisse abrogata e che finalmente venisse garantito ai palestinesi il diritto a lavorare. Ma ecco, voi andando, voi siete stati nei campi profughi. Voglio dire, in questa visita si percepiva già che cosa stava bollendo in pentola in Libano, cioè tutto questo rebelotto che è successo recentemente? Le proteste di piazza che stanno facendo i libanesi sono figlie di una situazione che va avanti da molti anni. Il Libano è in una profonda crisi economica, perché il Libano è un paese che non ha imprese produttive, si regge sul terziario, sulla finanza principalmente, e la situazione economica è pesante già da anni. In Libano manca la corrente, l'acqua che esce dai rubinetti è salata e l'acqua costa cara, non c'è stato sociale, quindi la sanità è a pagamento, l'istruzione è a pagamento, e quindi era prevedibile che prima o poi sarebbe esplosa la situazione, perché comunque il popolo ne soffre molto. In Libano ci sono molti poveri, e i palestinesi e i libanesi poveri sono veramente poveri, cioè non c'è una via di mezzo, o sono ricchi o sono poveri. I poveri talvolta vivono nei campi profughi insieme ai palestinesi, soprattutto a Shatila, o nel quartiere che si è creato laddove era Sabra, che è un quartiere esclusivamente di poveri libanesi emarginati che non hanno possibilità di rientrare all'interno della società. Quindi le proteste che sono esplose non stupiscono più di tanto. Ecco, io mi ricordo quando ero giovane, io, cioè un numero incommensurabile di anni fa, E il Libano era considerato la Svizzera del Nord Africa. Ecco, com'è che è diventato invece un paese che tu mi dici non c'è neanche più l'acqua potabile? Io penso che sia una situazione dovuta alla congiuntura economica mondiale che ha fatto sì che anche il Libano ne abbia risentito. Uno che gira per le strade di Beirut nel quartiere di Hamra Street se ne accorge poco di questa cosa, perché comunque le case hanno i generatori privati, gli alberghi hanno i generatori, quindi la corrente va via ma riparte subito con il generatore. Anche perché, come dicevo prima, i ricchi sono veramente ricchi e la crisi la sentono poco. Il problema è che è aumentata molto la quantità di popolazione povera. Povero vuol dire anche, si identifica anche con una confessione religiosa, cioè i cristiani e i maroniti sono ricchi e i musulmani sono poveri. Com'è la situazione? Sinceramente non la conosco in modo così approfondito da sapere se ci sono, se c'è un'equa ripartizione dei poveri all'interno delle confessioni religiose. Sicuramente c'è un'equa ripartizione dei ricchi. Però ecco, c'è una Beirut ovest e una Beirut est. Allora, nella Beirut est mi pare che sia un posto dove si vive molto bene, ci sono negozi aperti o l'incontrario, insomma, in una delle due. E invece in quell'altra, Beirut ovest, la fine del mondo, insomma, si vive malissimo. Voglio chiedere a Leo, però, che sia stato 10 anni fa, se la situazione era ancora in questi termini oppure, se secondo lui le cose sono ulteriormente marcite, peggiorate. Lo chiedo a Leo, ma intanto che Leo ci pensa, lo chiedo anche a Barbara. Io ho visto un po', non tantissima, comunque un po' di differenza fra la prima volta che sono andata nel 2011 e quest'anno. E ho visto aumentare il numero dei poveri. Ora, è chiaro che in mezzo sono arrivati anche i profughi siriani. 1,5 milioni di persone che arriva in un paese come il Libano, che è grande come l'Abruzzo e ha 4 milioni, poco più di 4 milioni di abitanti fanno la differenza, perché comunque sono persone che devono vivere, mangiare, dormire da qualche parte. E a Beirut ci sono i mendicanti, già l'anno scorso, quest'anno ancora di più e in situazioni ancora più pesanti. Ecco, Israele e Libano. Dunque, la storia recente del Libano è intersecata dalle guerre israeliane, a partire dal 1954. Io mi ricordo in un libro di Sharet, che fu presidente di Israele, denuncia il fatto che membri del suo governo, in particolare Dayan e Ben-Gurion, intrigavano molto per far costituire nel Libano un esercito libanese del sud, cosiddetto, cioè un esercito cristiano maronita, in opposizione a quella che loro presentavano come una dominazione della parte musulmana sul Libano. Ecco, ma da allora le cose mi pare che siano molto, molto, siano andate un po' a valanga perché ci sono state una serie di guerre. Ecco, queste guerre sulla condizione dei palestinesi come hanno influito? Gli attacchi israeliani al Libano, che sono tutti comunque finalizzati all'appropriarsi del fiume Litani, perché le guerre vengono sempre giustificate in altro modo, ma c'è sempre una causa ben precisa, un obiettivo ben preciso, in questo caso è l'acqua. Israele vuole l'acqua del fiume Litani. E questi attacchi continui servono a destabilizzare, a cercare di destabilizzare il Libano per poter avere mano libera e occupare i territori che gli fanno comodo. I palestinesi sono ovviamente vittime, come i libanesi, ma già vivendo in una situazione più precaria, quando c'è la guerra, per loro la situazione peggiora ancora di più. Fortunatamente negli ultimi anni Hezbollah si è rafforzato molto e gli episodi di inizio settembre hanno dimostrato anche a Israele che comincia ad essere pericoloso scherzare con Hezbollah e tentare di fare questi raid in territorio libanese. Ecco, in particolare c'è stata la guerra del 2006, mi pare, contro Hezbollah. Cioè, prima c'erano state una serie di guerre, no? Perché c'era stata prima l'invasione del sud del Libano nel 1978, poi nel 1982 Israele ha invaso tutto il Libano e c'è stata la strage di Sabra Shatila. Nel 2006 invece... Cos'è la guerra contro Hezbollah? Allora, Leo. Allora, io non sono stato nel 2006 in Libano, ma nel 2008, ma si vedevano ancora macerie, anche se possiamo dire in poco tempo, pochissimo tempo, tutta la popolazione intorno, soprattutto a Hezbollah, ha rimboccato le maniche e ha ricostruito. E dobbiamo ancora aggiungere qualche cosa sul 2006. Perché questa era una guerra diversa di quelle precedenti. Mentre soprattutto nell'82 Israele invase, distrusse, occupò la parte meridionale del Libano, dando poi ai falangisti libanesi man libera. Nel 2006 hanno fatto tante incursioni, io ricordo ancora una mappa. E in cui quando noi nel 2008 siamo stati nel Libano che ci consegniamo la mappa in cui si vedevano tutte le incursioni aeree, Beirut e così via, ma la resistenza libanese e soprattutto l'Hezbollah è stata talmente forte che la prima volta che l'invasione o la potenziale invasione del Libano da parte di Israele è stata respinta. E tutto il popolo, come dicevo, si è schierato intorno a Hezbollah. Hezbollah a fianco dell'esercito, l'esercito in realtà era più debole dell'Hezbollah. E questa è stata una grandissima vittoria. Noi avevamo l'occasione di fare un'escursione guidata dai nostri compagni palestinesi e libanesi. Lungo la cosiddetta linea verde del fiume Litani, e dove per esempio c'è UNIFIL, l'esposizione possiamo dire di truppe ONU che dovrebbe garantire l'armistizio oppure la non aggressione. Io ricordo ancora un episodio lì. Per me, come posso dire, scioccante, perché anche indubbiamente con la tregua, anche lì di nuovo Israele ha cercato di rubare un po' di terra, questo fa di continuo. Vicino a me era seduto un libanese e si poteva vedere dal confine proprio una gran parte della Galilea e questo una volta era la Palestina, no? E lui, palestinese, diceva: guarda qui, questo paese che è diventato un paese come tutti quelli che sono stati anche in Cisgiordania, un paese, una città anonima, no? E tutte le case prefabbricate, dice: ma questo qui era il paese di mio nonno. Allora, riprendiamo tra poco, dopo un breve intervallo musicale, e parleremo allora di quello che succede e come sono organizzati i campi profughi in Libano. لبيروت من قلبي سلام لبيروت وقبل للبحر والبيوت Allora, riprendiamo con una domanda Barbara. Ecco, in queste manifestazioni che ci sono in questi giorni, c'è una componente confessionale prevalente? Cioè, la domanda, cioè, nel Libano c'è un equilibrio tra diverse confessioni, no? Cristiani, musulmani e poi credo anche altre religioni e altre confessioni minori, cristiane, altro. Ci sono i drusi che sono musulmani, mi pare. Ecco. Ma ecco, in quello che succede in questi giorni, e di stasera è stata l'annuncio delle dimissioni di Hariri, no? Che era primo ministro, presidente, insomma, in queste manifestazioni c'è una prevalenza di una confessione rispetto alle altre, c'è cioè una preferenza, una maggioranza di musulmani, una maggioranza di maroniti o come? Barbara. L'impressione che si ha è che non ci sia la componente religiosa sia completamente al di fuori di questo movimento popolare. È un movimento spontaneo dal basso del popolo che non regge più la situazione in Libano. È stato scatenato, come si diceva prima, da motivazioni economiche, ma adesso le richieste che vengono fatte dalla piazza sono anche di cambiare la Costituzione, quindi sì, le dimissioni di Hariri, sì, le nuove elezioni, ma prima di tutto questo cambiare la Costituzione. Perché il Libano ad oggi è uno stato confessionale. In Libano ci sono 18 confessioni religiose e le posizioni di potere, sia all'interno del governo che dei sindacati, di qualunque istituzione pubblica, sono divise sulla base dell'appartenenza religiosa. Questo da meccanismo, da ordinamento dello Stato. La piazza questa cosa non la vuole più, vuole che venga totalmente eliminato il meccanismo di divisione confessionale delle cariche pubbliche e vuole uno Stato laico. Beh, questo io credo che una cosa di questo genere sia in qualche maniera inevitabile. Io ho conosciuto la situazione del Sudafrica e c'era allora un sindacato grosso, il COSATU, che era una specie di CGIL sudafricana, in cui le cariche erano proprio in base alla loro appartenenza etnica e religiosa. Allora c'era un certo posto veniva occupato da uno Zulu nero, da un Cosa nero, oppure da un ebreo bianco, un ebreo nero e via così e così avanti. Poi c'era il cristiano, eccetera. Cioè questo dosaggio che avevamo anche noi anche nella CGIL italiana, una volta c'era i rappresentanti comunisti, socialisti, della terza componente, eccetera. Ecco, è un tipo di ripartizione molto difficile, credo, da superare. Cioè, è molto difficile che chi appartiene a un determinato gruppo possa sentirsi rappresentato da chi appartiene a un gruppo diverso. Forse è una cosa che va superata. Sicuramente la piazza libanese chiede che venga superata. Poi un conto è se questi meccanismi sono meccanismi informali o comunque su cui ci si trova d'accordo perché siamo un po' tutti d'accordo che è bene che ci siano rappresentanti di varie situazioni. Un conto è che faccia proprio parte della Costituzione perché a quel punto lì è veramente predeterminata e non c'è modo di cambiarla se non si cambia la Costituzione. I giovani libanesi comunque non si riconoscono più in questo tipo di amministrazione del governo e chiedono uno Stato laico, cosa che ha creato problemi anche all'interno delle forze di governo, perché il popolo ha chiamato Hezbollah al suo fianco. E la risposta di Hezbollah non è stata proprio quella che il popolo desiderava, perché Hezbollah non ha preso posizione netta contro il governo di cui fa parte e contro il confessionalismo. Allora, due domande. Una è, Hezbollah che cos'è? Sono tutti libanesi oppure ci sono dentro libanesi e palestinesi. E la seconda domanda è, in queste manifestazioni ci sono anche i palestinesi a partecipare? Hezbollah è libanese, Hezbollah è la resistenza libanese, il partito della resistenza. I palestinesi è probabile che ci siano all'interno delle manifestazioni, però sicuramente non hanno un ruolo di spicco perché le loro rivendicazioni sono di altro tipo. I palestinesi scendono in piazza per rivendicare il diritto al ritorno, per rivendicare il diritto al lavoro. Poi è chiaro che anche loro sono interessati alla situazione generale del Libano, perché in questo momento vivono lì e sicuramente avrebbero solo da guadagnare dal cambiamento della Costituzione e dal fatto che il Libano possa diventare uno Stato laico, perché a quel punto il maggiore ostacolo alla concessione della cittadinanza ai palestinesi cadrebbe. Perché il motivo principale per cui il Libano non ha mai dato la cittadinanza ai palestinesi e non gliela darà è il fatto che i palestinesi sono sunniti e quindi dar loro la cittadinanza andrebbe a cambiare gli equilibri numerici delle componenti religiose all'interno del Libano. Quindi i palestinesi sono sunniti, Hezbollah è sciita, e beh, insomma, una bella complicazione. Ecco. Allora, facciamo un altro intervallo musicale e poi andiamo alla terza parte, cioè i tipi di incontri che avete avuto e che cosa avevano detto i palestinesi con cui vi siete incontrati. Ecco, sull'organizzazione, allora, sull'organizzazione dello Stato libanese, Leo ci voleva dire qualche cosa. Mentre sto finendo a masticare i datteri freschi che la compagna Marina ha portato dalla Palestina, allora rispondo. E come dicevo, e parliamoci molto chiaro, i casini o il casino nel Libano c'era già prima, ma non in questo modo. Tu hai parlato della Svizzera nel Medio Oriente, che è anche vero, ma già a suo tempo le grandi potenze, l'ex potere coloniale, i francesi e soprattutto Arabia Saudita, avevano le mani nella pasta. I francesi hanno più o meno dettato, obbligato la Costituzione al Libano per garantire, così hanno detto, l'equilibrio in base alle religioni che, e questo dicono tutti, ci aveva detto anche a suo tempo un direttore di un giornale libanese spagliatissimo, perché la prima volta che l'identità dello Stato fu fondato in base alla religione e alla provenienza e non ad altro. Allora così, un maronita deve essere, il maronita è il presidente della Repubblica. un sunnita è presidente del Consiglio e un sciita deve essere presidente del Parlamento. Poi, indubbiamente, nel potere, diciamo, interno, contano sicuramente ancora i drusi di Jumblatt, di provenienza socialista, non più di tanto. Poi, il conflitto, chiamiamo interreligioso, tra sciiti e sunniti non sarebbe stato se non i francesi, già nell'800-900, avevano, per avere ancora più potere nel Medio Oriente, hanno ingrandito il Libano e hanno aggiunto la parte sunnita nel nord, dove quando noi eravamo nel 2008, prima erano soliti dei conflitti anche armati, soprattutto nel campo Nahr el-Bared, che è un campo palestinese, uno dei più grandi, vicino a Tripoli. Allora, ecco, a proposito degli incontri invece che avete avuto voi, che siete stati di recente in Libano, allora, avete avuto incontri con Hezbollah e con palestinesi, e che tipo di clima avete respirato, cioè di concordia, di totale concordia, di riserve? Ecco, che cosa ci raccontate a proposito? Noi abbiamo incontrato il sindaco di Hubeiri, che è la municipalità all'interno della quale si trova Shatila e che è di Hezbollah, che anche quest'anno, come nelle precedenti occasioni, ci ha ribadito l'interesse verso il popolo palestinese e la disponibilità a mettere in campo tutte le azioni necessarie per rendere migliore la vita dei palestinesi. Questo in cosa si concretizza? Purtroppo negli anni io ho sentito spesso queste affermazioni e purtroppo non ho visto grossi cambiamenti nel campo di Shatila, nel campo profughi di Shatila. Però la disponibilità, perlomeno formale, di Hezbollah per l'appoggio alla causa palestinese c'è sempre, e i palestinesi da parte loro l'apprezzano e continuano a farci affidamento. Abbiamo poi incontrato il rappresentante culturale di Hezbollah, che ha ribadito anche alle manifestazioni per la commemorazione del massacro di Sabra e Shatila che Hezbollah sarà sempre a fianco del popolo palestinese nella lotta per la libertà e per il diritto al ritorno. Ecco, ma Hezbollah è solamente una entità militare o è anche un'entità politica? Cioè, voglio dire, nei confronti delle rivendicazioni dei palestinesi che si trovano senza lavoro, senza possibilità, senza possibilità di vivere decentemente, ecco, Hezbollah riesce a fare qualche cosa sul piano sociale oppure su questo piano si impegna in modo limitato? Sul piano sociale sicuramente sì, perché comunque Hezbollah interviene economicamente nelle situazioni in cui c'è bisogno di denaro per risolvere delle situazioni o garantire comunque un livello di vita minimo decente. È sulla parte politica, sull'intervento politico, che difetta un po' di più, perché Hezbollah avrebbe avuto forse la possibilità di premere un po' di più sul governo perché venissero cambiate determinate leggi per migliorare i diritti politici e civili dei palestinesi, però non l'ha fatto. Ecco, forse un'ultima domanda. I palestinesi in questa situazione si sentono appoggiati, si sentono strumentalizzati, si sentono massa di manovra, oppure mantengono una loro qualche diciamo dignità politica? I palestinesi, dopo le varie vicende storiche in cui hanno anche preso posizione sulle varie situazioni libanesi e che non gli hanno portato esattamente fortuna, negli ultimi anni tendono a concentrarsi sulla propria causa. Quindi i palestinesi lottano per il diritto al ritorno, cercando in questa lotta la solidarietà e l'appoggio di tutte le forze politiche libanesi che si rendano disponibili a farlo, quindi sia Hezbollah, sia il Partito Comunista Libanese, che è altrettanto schierato a fianco del popolo palestinese. Evitano di prendere posizione sulle questioni interne del Libano. E la sensazione che hanno ogni tanto, soprattutto gli abitanti, le persone comuni dei campi profughi, è un po' quella di essere presi in giro, non strumentalizzati, ma presi in giro, perché promesse ce ne sono tante e fatti pochi. Bene, con io penso che per chi ci ha ascoltato, questo che abbiamo detto oggi abbia dato perlomeno qualche informazione in più, qualche informazione che è difficile sentire dalle nostre televisioni e di cui ringraziamo Leo e Barbara e vi diamo appuntamento per mercoledì prossimo dalle 7 alle 7 e mezza. Grazie dell'ascolto, a presto. أرضي وبلادي قلبي وفؤادي من هالمجد من هالمجد